Il cacciatore di libri. Puntata dedicata agli scrittori esordienti. La prima è Silvia Avallone, da poco uscito per Rizzoli il suo primo romanzo, Acciaio, già entrato in classifica. È la storia di due ragazzine, come si dice nel libro, quasi quattordicenni, Anna e Francesca, che vivono in un quartiere popolare di Piombino, la cittadina dominata dall'acciaieria e dalla quale partono i traghetti per l'isola d'Elba. Ecco come l'autrice parla delle due protagoniste. Sono appunto due ragazzine che crescono in provincia, nelle periferie industriali italiane, e che vivono quel passaggio molto delicato, però anche molto potente, che sta tra l'infanzia e l'età adulta. Quindi caratterizzante di tutto questo è da una parte il senso di onnipotenza, no? Arrivo a 14 anni, arrivo al mondo, conquisto tutto. Dall'altra però anche la fragilità, ovviamente, del sentirsi anche in balia di un mondo molto difficile, quale quello dei casermoni popolari, degli operai, in questo caso, che lavorano alla Lucchini, industria siderurgica di Piombino. Quanto conta l'ambiente della periferia, appunto, di Piombino, tutto questo mondo che gira intorno all'acciaieria, nella trama e nella descrizione dei personaggi del tuo romanzo? Beh, conta tantissimo. Infatti io, più che, oltre che raccontare una storia, ci tenevo proprio a ricostruire quel mondo dove l'acciaio domina proprio come forma di materia, domina un po' anche l'industria su tutta la città, l'unica forma vera di sostentamento per quelle famiglie, e naturalmente anche questi quartieri dove non ci sono cinema, non ci sono biblioteche, un'umanità che non va in vacanza, che sostanzialmente fatica e quasi basta. Una realtà che tu conosci, tu hai vissuto a Piombino. Sì, ho vissuto qualche anno, però ci ho passato anche tutte le estati della mia vita, da qui anche la scelta di ambientare tre quarti del romanzo d'estate. L'estate è l'unico momento di felicità, perché essendoci il mare poi si esce fuori, si va in spiaggia, ed è quasi il piccolo paradiso di questa esistenza, è proprio il mare e soprattutto l'isola d'Elba che ci sta davanti e che però non si può raggiungere, perché quello è il mondo non della fatica ma delle vacanze. Una delle due protagoniste, in particolar modo Francesca, vive una situazione familiare piuttosto difficile. Perché? Spesso appunto dentro le case, soprattutto in questi alveari di casermoni popolari, ci sono dei drammi e non certo delle situazioni di idillia, che nel caso di Francesca abbiamo a che fare con la violenza domestica, con un padre padrone e con una madre succube. Questa purtroppo non credo che sia una situazione molto eccezionale, ecco. Le due protagoniste, Anna e Francesca, vivono con grande intensità anche i cambiamenti del proprio corpo. Sono due adolescenti fra i 13 e i 14 anni che iniziano anche ad avere rapporti con l'altro sesso, quindi con i ragazzi. In che modo vivono queste loro avventure, questi loro cambiamenti? Nella lotta, diciamo, darwiniana che c'è tra i tredicenni, perché poi è un'età molto crudele, loro hanno appunto la bellezza dalla loro parte, e nel fiorire di questo corpo, che è un po' come il contraltare dell'acciaio in quanto a bellezza, appunto, loro sentono anzitutto un'arma di affermazione, per cui questo loro esplodere di femminilità lo vivono anche in maniera guerriera, si impongono alle finestre, ricercano proprio di attrarre, di conquistare gli altri attraverso il corpo. Il suo romanzo è uscito da poco e ha avuto già un grande successo di pubblico, è già nelle classifiche dei 10 libri più venduti e tra l'altro ha avuto anche delle ottime critiche. Come stai reagendo a tutto ciò? È la tua opera prima? Sì, io ovviamente sono da una parte molto contenta, dall'altra c'è anche estrema sorpresa, perché ovviamente non mi aspettavo già subito all'inizio. Io mi sento appunto che ho tantissima strada da fare, quindi tutto questo clamore improvviso mi ha anche un po' così sorpreso. Un paio d'anni fa c'era un altro ragazzo, 26 anni, che aveva fatto quello che poi è diventato un mega seller, mi riferisco a Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi, più di 1,5 milioni di copie vendute. Ti senti un po' la sua versione femminile? Ma dire il vero, no, nel senso che siamo veramente diversi, abbiamo scelto anche proprio di raccontare due umanità molto diverse. Certo è che appunto il suo libro l'ho letto, ho anche insomma apprezzato molto, e c'è uno sguardo cinematografico nel libro di Paolo Giordano che in effetti un po' ho pensato anche di riprendere, un po' di spunto l'ho preso anche da lui. Tu sai che in Italia ci sono tantissimi aspiranti scrittori, non solo giovani ma anche più attempati. Che cosa consiglieresti ad un ragazzo della tua età, 20 26 anni che magari ha il sogno nel cassetto di fare un romanzo? Beh, tanta fatica e tanta pazienza, perché poi secondo me è soltanto una la strada, non ce n'è un'altra, cioè quella di anzitutto leggere moltissimo e quella di avere la pazienza e anche il coraggio di stare su una pagina magari un mese fin quando quella pagina non è veramente perfetta. Ma tu come sei arrivata alla pubblicazione? Hai fatto il percorso classico, hai inviato il manoscritto per posta o ti sei trovata un agente? No, io non l'ho preso l'agente, né prima né adesso. Io in effetti ho appunto lavorato moltissimo prima di mandare fuori dalla mia stanza quello che scrivevo. Ho preso i miei capitoli migliori e sì, li ho mandati a Rizzoli, la quale, con mia grandissima sorpresa, dopo 2 settimane circa mi ha richiamata. Insomma, anche dai meriti sconosciuti si riesce a, come dire, a puntare al cuore di una casa editrice? Ma secondo me sì, perché poi sono appunto tutti affamati di novità, il pubblico, gli editori in generale, quindi l'importante appunto è lavorare molto bene, mandare sempre quando si è comunque un po' sicuri che c'è valore. A quel punto lì bisogna affrontare, se c'è un no non bisogna perdere le speranze. E questa era Silvia Avallone, autrice di Acciaio, pubblicato da Rizzoli. Veniamo ora ad un'altra esordiente, Leonora Sartori. Il suo primo romanzo si intitola La forma incerta dei sogni, pubblicato da PM. La storia si divide fra l'Italia e il Sudafrica. Protagonista Leo, una bimba che all'inizio della storia ha 7 anni. Ecco come la descrive l'autrice. È una bambina con una famiglia un po' particolare e diciamo la sua vicenda si svolge in parallelo con quest'altra molto più lontana, che è quella, la vicenda dei 6 di Sharpeville. In che cosa è particolare la famiglia di Leo? È una famiglia in qualche modo molto impegnata, con una buona dose di idealismo, e questa la rende, come dire, a volte goffa, impacciata, da altri punti di vista invece molto così, molto amorevole, ironica e molto anche divertente. Quindi due genitori molto impegnati nel sociale, in particolare in quegli anni, negli anni 80, in una campagna, diciamo, contro l'apartheid, e in particolare appunto tra tutte, quindi tra tutti i vari volantini, adesivi che Leo si ritrova ad avere per casa, in particolare proprio anche attaccati a questa sua, alla cassettiera che sta di fianco al suo letto. Una di queste è la vicenda dei 6 di Sharpeville, quindi questa campagna per la liberazione di queste 6 persone in Sudafrica, una township vicino a Johannesburg. 6 persone vengono poi condannate a morte per aver preso parte, diciamo, a una manifestazione, a una dimostrazione in cui viene ucciso un console. Quando Leo cresce, quindi va in Sudafrica proprio per toccare con mano le conseguenze di questa vicenda. Esatto, c'è un po' il bisogno di chiudere un cerchio e di vedere in faccia, dopo tanti anni, proprio queste 6 persone di cui tanto aveva sentito parlare quando era piccola. Queste 6 persone vengono poi, dopo anni nel braccio della morte, vengono liberate alla fine degli anni 80, quando ormai comunque l'apartheid si sta un pochino sgretolando. Quindi dopo anni c'è il bisogno di andare a capire chi erano questi eroi familiari in qualche modo e di vedere che facce avevano. I genitori si erano battuti, avevano passato così tante magari domeniche a dimostrare, a fare manifestazioni, a scrivere volantini. C'è il bisogno di capire: ma chi diavolo sono? Mi hanno rubato come bambino, ovviamente, molte, non so, domeniche di cartoni animati. Perché? Ovviamente, chiaro, è lo sguardo di una bambina. Da adulti si pensano altre cose. E questa era Leonora Sartori, autrice di La forma incerta dei sogni, pubblicato da PM. Per il consiglio d'autore oggi la parola va ad Ildefonso Falcones, il cosiddetto Dan Brown spagnolo, ora in libreria con La mano di Fatima. Io potrei raccomandare, per esempio, l'ultimo libro di Isabel Allende. Potrei consigliare, per esempio, l'ultimo di Isabel Allende. Il titolo in italiano dovrebbe essere L'isola sotto il mare. La Allende scrive molto bene. In questo romanzo tratta un tema interessante come la schiavitù, lo sviluppo della schiavitù. Mi piace abbastanza. Mi ha gustato abbastanza. Il libro consigliato da Ildefonso Falcones è dunque L'isola sotto il mare di Isabel Allende, pubblicato in Italia da Feltrinelli. Prima di chiudere vi ricordo che trovate queste e le altre puntate d'archivio del Cacciatore di Libri sul nostro sito www.radio24.it in versione MP3 o anche volendo in podcast. Anche per oggi è tutto, una buona serata da Alessandra Tedesco.